Del resto, il nostro torto non è quello d'apprezzare l'intelligenza, la grazia ad una donna che amiamo, per quanto tenui esse siano. Il nostro torto è di restare indifferenti alla grazia, all'intelligenza delle altre. La menzogna ricomincia a provocarci quell'indignazione, la bontà quella riconoscenza che sempre dovrebbero suscitare in noi solo se vengono da una donna che amiamo, e il desiderio fisico ha il meraviglioso potere di attribuire il suo giusto valore all'intelligenza e delle solide basi alla vita morale. Mai più avrei ritrovato questa cosa divina, un essere col quale poter parlare di tutto, col quale potermi confidare. Confidare. Ma altri esseri non mi dimostravano forse maggior confidenza di Albertine? Non facevo forse con altri conversazioni più distese? Il fatto è che la confidenza, la conversazione, faccende mediocri. Cosa può importare che siano più o meno imperfette se soltanto vi si mischi l'amore, che solo è divino? Rivedevo Albertine seduta alla pianola rosa sotto i capelli neri. Sentivo sulle mie labbra che cercava di schiudere la sua lingua materna, incommestibile, nutritiva e santa, la cui fiamma e la cui rugiada segrete facevano sì che persino quando Albertine si limitava a farla scivolare sulla superficie del mio collo, del mio ventre, quelle carezze superficiali, ma in qualche modo scaturite dall'interno della sua carne, rovesciata in fuori come una stoffa che mostri la propria fodera, assumessero anche nei toccamenti più esterni la misteriosa dolcezza d'una penetrazione. Tutti quegli istanti così dolci che niente ormai mi avrebbe fatto ritrovare, non posso neanche dire che quanto provavo per la loro perdita fosse disperazione. Questa vita che non potrà essere ormai altro che infelice, per essere disperati bisogna ancora tenerci. Ero disperato a Balbec, quando avevo visto spuntare il giorno e avevo capito che per me non ce ne sarebbero più stati di felici. Dopo ero rimasto altrettanto egoista, ma l'io cui ero legato adesso, l'io che costituiva le vive riserve che mettono in gioco l'istinto di conservazione, quell'io non era più nella vita. Quando pensavo alle mie forze, alla mia energia vitale, a quanto avevo di meglio, pensavo a quel tesoro che avevo posseduto, che ero stato il solo a possedere, già che gli altri non potevano conoscere esattamente il sentimento nascosto in me che esso mi aveva ispirato, e che nessuno avrebbe potuto più togliermi dal momento che non lo possedevo più. E a dire il vero, se l'avevo posseduto, era soltanto perché avevo voluto figurarmi di possederlo. Non avevo commesso soltanto l'imprudenza, guardando Albertine con le labbra e collocandola nel cuore, di farla vivere dentro di me, né l'altra imprudenza di mischiare un amore familiare al piacere dei sensi. Avevo anche voluto persuadermi che i nostri rapporti fossero l'amore, che praticassimo reciprocamente i rapporti chiamati amore, dal momento che lei ricambiava docilmente i baci che le davo. E per aver preso l'abitudine di crederlo, non avevo perduto soltanto una donna che amavo, ma una donna che mi amava, una sorella, una figlia, una tenera amante. E avevo avuto, insomma, una felicità e un'infelicità che Swann non aveva conosciute. Proprio perché, per tutto il tempo che aveva amato Odette e ne era così geloso, l'aveva vista appena, riuscendo ad andare da lei con tanta difficoltà in giorni concordati che lei disdiceva all'ultimo momento. Dopo però l'aveva avuta tutta per sé, sua moglie, e fino alla morte. Io, al contrario, più fortunato di Swann. Mentre ero così geloso di Albertine, l'avevo avuta in casa mia. Avevo attuato nella realtà quello che Swann aveva tanto spesso sognato e non aveva materialmente realizzato che quando non gliene importava più nulla. Ma alla fine io, Albertine, non l'avevo tenuta come lui aveva tenuto Odette. Era fuggita, era morta. perché niente mai si ripete esattamente, e anche le esistenze più analoghe, che grazie all'affinità dei caratteri e alla somiglianza delle circostanze è possibile scegliere per presentarle come simmetriche l'una all'altra in molti punti, rimangono opposte. E certamente l'opposizione maggiore, l'arte, non si era ancora manifestata. Perdendo la vita, non avrei perduto granché. Non avrei perduto che una forma vuota, la cornice vuota di un capolavoro. Indifferente ormai a quel che potevo metterci, ma felice e fiero al pensiero di ciò che aveva contenuto. M'appoggiavo al ricordo di quelle ore così dolci e questo sostegno morale mi comunicava un benessere che nemmeno l'appressarsi della morte avrebbe spezzato. Con quanta sollecitudine a Balbec accorreva da me quando la mandavo a chiamare, indugiando solo a versarsi del profumo nei capelli per piacermi. Quelle immagini di Balbec e di Parigi che tanto amavo rivedere erano pagine della sua breve vita così recente ancora e così presto voltate. Tutto ciò che per me era semplice ricordo, per lei era stato azione, azione precipitosa come quella di una tragedia verso una morte rapida. Gli esseri hanno infatti uno sviluppo dentro di noi, ma un altro al di fuori di noi. Lo avevo ben sentito certe sere, notando in Albertine un arricchimento di qualità che non dipendeva soltanto dalla mia memoria, e l'uno non manca di reagire sull'altro. Invano, cercando di conoscere Albertine, poi di possederla interamente, avevo obbedito unicamente al bisogno di ridurre, tramite l'esperienza, il mistero di ogni essere, di ogni paese che l'immaginazione ci ha fatto apparire diversi, ad elementi meschinamente simili a quelli del nostro io, e di spingere verso l'autodistruzione ogni nostra gioia profonda. Nel farlo, non avevo potuto non influire a mia volta sulla vita di Albertine. Forse la mia situazione economica, le prospettive d'un matrimonio brillante l'avevano attratta. La mia gelosia l'aveva trattenuta. La sua bontà o la sua intelligenza o il sentimento della sua colpevolezza o gli accorgimenti della sua astuzia l'avevano indotta ad accettare e avevano spinto me a rendere sempre più dura una cattività forgiata semplicemente dallo sviluppo interno del mio lavoro mentale, ma che non per questo non faceva subire alla vita di Albertine dei contraccolpi destinati a loro volta a provocare, di rimbalzo, problemi nuovi e via via più dolorosi alla mia psicologia, dal momento che dalla mia prigione lei era evasa per andare ad ammazzarsi su un cavallo che senza di me non avrebbe posseduto, e lasciandomi anche da morta sospetti la cui verifica, se mai fosse venuta, mi sarebbe riuscita forse ancora più crudele, perché non ci sarebbe più stata lei a tranquillizzarmi, della scoperta a Balbec che Albertine aveva conosciuto Mademoiselle Vinteuil. E così il lungo lamento dell'anima che crede di vivere chiusa in se stessa è solo in apparenza un monologo, perché gli echi della realtà lo fanno deviare e una vita è come un saggio di psicologia soggettiva spontaneamente perseguito, ma che fornisce a una certa distanza la sua azione al romanzo puramente realistico di un'altra realtà, di un'altra esistenza, le peripezie del quale vanno a loro volta a modificare la curva e a mutare la direzione del saggio psicologico. Come era stato serrato l'ingranaggio, come era stata rapida l'evoluzione del nostro amore e, malgrado qualche iniziale ritardo, interruzione ed esitazione, non diversamente che in certe novelle di Balzac o in alcune ballate di Schumann, rapido lo sviluppo. Era nel corso dell'ultimo anno, lungo per me come un secolo, tante erano state le volte che Albertine non solo aveva cambiato posizione rispetto al mio pensiero da Balbec fino alla sua partenza da Parigi, ma anche, indipendentemente da me e spesso a mia insaputa, era cambiata in se stessa, che bisognava situare tutta quella buona vita di tenerezza, che era durata così poco, eppure mi appariva d'una pienezza, quasi di un'immensità, irrimediabilmente impossibile, e tuttavia mi sembrava indispensabile. Indispensabile, senza avere forse di per sé a prima vista nulla di necessario, dal momento che non avrei conosciuto Albertine se non avessi letto in un trattato di archeologia la descrizione della chiesa di Baalbek. Se Swan, dicendomi che quella chiesa era quasi persiana, non avesse orientato i miei desideri verso il normanno bizantino, se una compagnia di grandi alberghi, costruendo a Baalbek un albergo igienico e confortevole, non avesse indotto i miei genitori a esaudire i miei desideri mandandomi a Baalbek. Certo, in quella Baalbek così a lungo desiderata non avevo trovato la chiesa persiana di cui sognavo, né le nebbie perpetue. Nemmeno il bel treno dell'1:35 aveva corrisposto alle mie fantasie, ma in cambio di ciò di cui l'immaginazione crea l'aspettativa e che tanto e così inutilmente ci affatichiamo per cercare di scoprire, la vita ci dà qualcosa che eravamo ben lungi dall'immaginare. Chi m'avrebbe detto a Combré, quando aspettavo con tanta tristezza la buonanotte di mia madre, che le mie ansie sarebbero scomparse per poi rinascere un giorno, non per mia madre, ma per una fanciulla la quale non sarebbe stata tutta prima sull'orizzonte del mare che un fiore da cui i miei occhi sarebbero stati attratti ogni giorno, ma un fiore pensante e nei cui pensieri io aspiravo tanto puerilmente a occupare un grande spazio da soffrire al pensiero che ignorasse i miei buoni rapporti con Madame de Villeparisis. Sì. Era per la buonanotte, per il bacio di quell'estranea che avrei dovuto, in capo a qualche anno, soffrire, come quando, bambino, mia madre non veniva a salutarmi. Questa Albertine, così necessaria, del cui amore la mia anima era ormai quasi unicamente composta. Se Swan non mi avesse parlato di Baalbek, io non l'avrei mai conosciuta. La sua vita forse sarebbe stata più lunga. La mia sarebbe stata priva di ciò che adesso ne faceva il martirio. E così mi sembrava, con la mia tenerezza unicamente egoistica, d'aver fatto morire Albertine proprio come prima avevo assassinato la nonna. Anche più tardi, anche dopo averla conosciuta a Baalbek, avrei potuto non amarla come in seguito l'amai. Infatti, quando rinunciavo a Gilberte e sapevo che avrei potuto un giorno amare un'altra donna, osavo appena mettere in dubbio che, almeno per il passato, avrei potuto amare soltanto Gilberte. Per Albertine, invece, non dubitavo neanche più. Ero sicuro che avrei potuto non amare lei, che avrei potuto amare un'altra. Sarebbe bastato per questo che Mademoiselle de Stermaria, la sera che dovevo pranzare con lei all'Isola del Bois, non avesse disdetto l'appuntamento. Si era ancora in tempo allora, e l'attività dell'immaginazione, in forza della quale estraiamo da una donna una nozione dell'individuale che ce la fa apparire unica in sé e a noi predestinata e necessaria, si sarebbe esercitata su Mademoiselle de Stermaria. Al massimo, adottando un punto di vista quasi fisiologico, potevo dire che avrei potuto concepire quel medesimo amore esclusivo per un'altra donna, ma non per qualsiasi altra donna. Infatti Albertine, robusta e bruna, non assomigliava a Gilberte, slanciata e rossa, ma entrambe avevano la stessa stoffa di salute e, nelle stesse gote sensuali, lo stesso sguardo di cui era difficile afferrare il significato. Erano donne cui non avrebbero concesso un solo sguardo uomini che, dal canto loro, avrebbero fatto pazzie per altre che a me non dicevano niente. Potevo quasi credere che la personalità sensuale e volitiva di Gilberte fosse migrata nel corpo di Albertine, che era sì un po' diverso, ma presentava, ora che ci riflettevo a posteriori, profonde analogie. Un uomo ha quasi sempre lo stesso modo di raffreddarsi, di ammalarsi, nel senso che gli occorre, perché questo accada, un certo concorso di circostanze. È naturale, quando si innamora, che gli capiti con un certo genere di donne, genere, peraltro, alquanto esteso. I primi sguardi di Albertine che m'avevano fatto sognare non erano assolutamente diversi dai primi sguardi di Gilberte. Potevo quasi credere che l'oscura personalità, la sensualità, la natura volitiva e scaltra di Gilberte fossero tornate a tentarmi, incarnate stavolta nel corpo di Albertine, affatto diverso e tuttavia non senza analogie. Nel caso di Albertine, grazie a una vita diversissima, in comune e dove nemmeno una crepa di distrazione d'oblio s'era potuta insinuare in un blocco di pensieri all'interno del quale una dolorosa preoccupazione manteneva una coesione permanente, il suo corpo vivo non aveva mai smesso, come a un certo punto quello di Gilberto, d'essere per me, mentre non lo sarebbe stato per altri, quello in cui trovavo ciò che riconoscevo a posteriori come il fascino femminile. Ma era morta. L'avrei dimenticata. Chi poteva dire allora se le stesse qualità di sangue ricco, di fantasticheria inquieta, non sarebbero tornate un giorno a gettare lo scompiglio dentro di me, ma incarnate stavolta in quale forma femminile, non m'era possibile prevedere. Sulla scorta di Gilbert non avrei potuto figurarmi Albertine, né che l'avrei amata più di quanto il ricordo della sonata di Vinteuil m'avrebbe consentito di figurarmi il suo concerto. Anzi, le prime volte che avevo incontrato Albertine, avrei potuto benissimo credere che mi sarei innamorato di qualcun'altra. D'altra parte, se l'avessi conosciuta un anno prima, lei sarebbe potuta persino sembrarmi scialba come un cielo grigio non ancora illuminato dall'aurora. Se io ero cambiato nei suoi riguardi, anche lei era cambiata. E la fanciulla che era venuta verso il mio letto il giorno in cui avevo scritto Mademoiselle de Stermaria non era più la stessa che avevo conosciuta a Balbec, fosse semplice esplosione della donna quale si manifesta al momento della pubertà, o fosse a seguito di circostanze che non sono mai riuscito ad appurare. In ogni caso, anche se quella che un giorno avrei amata avesse dovuto in qualche misura assomigliarle, vale a dire se la mia scelta d'una donna non era stata del tutto libera, restava il fatto che, sebbene fosse indirizzata da una sorta di necessità, lo era stata verso qualcosa di più vasto d'un individuo, verso un genere di donne, il che, togliendo ogni necessità al mio amore per Albertine, bastava al mio desiderio.